Magdal. Rock and roll, jumping jive, rockabilly, doo-wop, rhythm and blues con Good Rockin' Tonight. Un programma condotto da Maurizio Faulisi in onda il giovedì alle 23 con replica il lunedì alla stessa ora. Good Rockin' Tonight su Rock FM. E dove se no? The Long Journey, il sito internet di approfondimento culturale dedicato alla musica folk americana. Migliaia di articoli, interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bcmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bcmai.it. Rock FM. Rock FM presenta Country Skyline. Buonasera, buonasera, buonasera cari ascoltatori di Rock FM, Maurizio Faulisi al microfono. E anche questa sera, come succede 365 volte all'anno, sono giunte le 23. E come succede al martedì sera alle 23, comincia Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la Roots Music e la Country Music da Rock FM, la vostra radio preferita. Vero, no? Davvero, davvero, davvero. Una trasmissione alla sua 13ª edizione, mica è nata l'altro ieri, no. Una trasmissione che tratta troppi generi musicali per elencarli, ogni tanto ci tento, anzi ci tento anche spesso, ma non mi riesce mica. Sì, perché è facile dire roots, facile dire country music, ma dietro questi due termini assolutamente vaghi si celano, almeno in Italia, un paio di dozzine di stili musicali spesso sconosciuti qui da noi, ma che quando fatti ascoltare sono apprezzati davvero da tutti, da quelli che amano la musica di una certa qualità, ma anche dal popolone, quelli che insomma ascoltano la musica così, senza troppo impegno, senza troppa partecipazione, perché sono suoni che piacciono, trasmette buon umore, dà la sensazione di viaggiare, di... Sì, ti fa viaggiare. Questa musica ti fa viaggiare anche quando stai fermo in poltrona. Una musica che sia suonata da mandolini, violini, Dulcimer, Emerald Dulcimer e banjo, così come da chitarre elettriche, più o meno coinvolge sempre, anche quando si tinge quasi di rock. E qui siamo, nel bel pieno di quel rock che a noi piace tanto, che ha un nome questa sera, John Hiatt. This time it's gonna be a permanent hurt. voce nera, graffiante, bellissima, quella di John Hiatt. Questo è il nome del rocker con il quale abbiamo cominciato questa sera. John Hiatt. E lo abbiamo ascoltato tratto da un disco del 1993, quindi non è esattamente una novità discografica. Sicuramente, o almeno voglio sperare, faccia già parte della vostra discografia. E non era passato neanche troppo tempo da quella serie di dischi cominciata con Bring the Family nella seconda metà degli anni Ottanta, che lo lanciò come uno dei migliori rocker, anzi che lo confermò come uno dei migliori rocker americani del tempo, e che è rimasto tale nel cuore di tanti amanti del rock, del certo cantautorato, ma anche della musica country, perché John Hiatt gode di buona fama e di stima da parte del popolo di Nashville e anche dei suoi stessi colleghi di Nashville. La canzone che abbiamo ascoltato era Permanent Hurt, tratto da un disco del 1993 intitolato Perfectly Good Guitar. E a proposito di chitarre, lo sapete di chi è questa chitarra? Sì, questa qui, quella che state ascoltando. Vi sfugge? Che tecnica, ragazzi! Questo chitarrista si chiama Eric Johnson. Allora, devo confessarvi di non conoscere molto la discografia di... anzi, l'ho trascurato davvero. Ho saputo di questo bellissimo disco tanti anni fa. Credo di averlo acquistato poche settimane dopo la sua uscita, perché ne senti parlare come un gran chitarrista, e fu la conferma ascoltando questo disco intitolato... Ah, via Musicon, scusate, ma la copertina del disco non era più a portata di mano. Ecco, in questo disco lui già, ed era all'inizio della sua carriera discografica del 1990, questo è un disco del 1990, dà sfoggio della sua tecnica che si dirige verso più direzioni. Sì, si indirizza verso più direzioni tenete conto che lui, Eric Johnson, nativo del Texas, è nato nel 1954 in Texas, è cresciuto ascoltando Johnny Winter, Billy Gibbons, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix soprattutto, e anche il bluesman Albert King. Ecco, è su questi musicisti che si è formato, che ha formato la sua tecnica, ma non disdegna l'amore, di presentare la country music come lui la sa fare, e sentite come la sa fare, un gran chitarrista, insomma. Ecco, il brano strumentale che vado a presentarvi, sempre tratto da questo disco che è del 1990, è un brano intitolato Cliffs of Dover. E siccome abbiamo iniziato con un brano decisamente country rock, più rock forse che country, vado avanti così, con un brano decisamente più rock, anzi sicuramente rock, che di country, se non altro ha, se vogliamo, quella caratteristica fondamentale che è propria del country, ovvero il grande rispetto e la grande evidenza verso la melodia. Ecco, sentite questo brano che si intitola Cliffs of Dover, e questa chitarra elettrica come cuce la melodia, come la accarezza, come la pone. Ecco, proprio come una fiddle tune davvero secolare. Cliffs of Dover e Eric Johnson. We'll be right back. Cliffs of Dover, Eric Johnson, la magica chitarra di Eric Johnson che ascoltate praticamente tutti i martedì come base, ovvero questa che è tratta dallo stesso disco del 1990 dal quale abbiamo ascoltato questa sorta di fiddle tune per chitarra elettrica, chitarra rock, decisamente chitarra rock. Bene, ma questa è una trasmissione di Roots e Country Music, vogliamo scordarlo forse? E allora la dimostrazione che questa è una trasmissione di Country Music e Roots Music vogliamo darla finalmente al terzo brano, ma non con un gruppo che arriva dal Kentucky, Tennessee, dalla North o South Carolina, no, ma dalla fredda Svezia. I Chidden Hearts. Benvenuti anche agli svedesi Chidden Hearts. Last night, my dear, the rain was falling. I went to bed so sad and blue. Avreste creduto, sì, ne sono assolutamente certo. Se vi avessi detto che arrivavano da un sobborgo di Nashville, non era facile non crederlo, davvero. E invece arrivano dalla fredda Svezia, sì, davvero anche questo. Si chiamano Chidden Hearts, le due voci femminili, belle le voci femminili di questa band. Marina Upgren e Sofia Johansson ci hanno fatto ascoltare un classico della country music ed è fatto di classici questo disco, intitolato semplicemente con il loro nome, con il nome della band, Chidden Hearts. Il brano era I Don't Believe You Met My Baby, ascoltata mille volte in versione country ma anche in versione bluegrass, uscita dal repertorio dei Loving Brothers, uno dei duo più importanti dell'intera storia della country music. A proposito, non vi ho ancora comunicato il numero di sms che potete utilizzare per poter inviare messaggi a Country Skyline: 338-6171-300, lo ripeto, 338-6171-300. L'indirizzo email è maurizio@radiorockfm.com. Questa è Country Skyline, in onda dalle 23 alle 24 in diretta al martedì sulle frequenze di Rock FM. Siamo in Svezia e visto che vi sarete sicuramente sorpresi di quanto sono bravi gli svedesi a fare country music, è la domanda che spontanea vi sarete posti: ma saranno bravi anche gli altri? La risposta è... la risposta è sì, decisamente sì. Lee Marvelous, anche loro a Country Skyline. It's really hard to handle, Lord, the way I've been abandoned, though. I guess that I'm still standing despite my tears. Although I feel like drowning, my sorrows live just like there's no tomorrow. If you've been there, you know exactly how I feel. The bright lights of the city ain't giving consolation, not to me. And that old street road to heaven isn't right where I'm living, though it passes by some fellow neighbor's door. And that easy road to heaven isn't right where I'm living, and Stockholm ain't the place I'm asking for. Some cities got a wooden style, take me through another night, while others just don't quite got what it takes. I need a place that feels alright, with decent folks, with neon signs and bars, that keeps me going until it's late. But I can't seem to think straight on my longing, on my broken heart that aches. And that old straight road to heaven isn't right where I'm living, no, it passes by some fellow neighbor's door. And the easy road to heaven isn't right where I'm living, no, Stockholm ain't the place I'm asking for. I'm asking for each part of this forsaken town reminds me of how she puts me down. Through rivers worth of tears, it's what I've seen. I need a change of scenery, and Stockholm ain't the place I want to be. And now Stockholm ain't the place I want to be. No, Stockholm ain't the place I want to be. The Long Journey, il sito internet di approfondimento culturale dedicato alla musica folk americana. Migliaia di articoli, interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bcmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bcmai.it. Just a low-tech boy from Cairo, Illinois. I may be dumber than your cousin Leroy, but I'm the real McCoy. Don't call me crazy, I'm just a little wild, so please don't you cramp my style. I might not understand today's applause, cause I'm a low-tech boy. I'm just a low-tech boy from the lowlands of Illinois. My mommy's Irish and my dad's a real boy. Real like old-fashioned toys. Don't call me lazy, just wanna relax, so please don't send me no fax. Well, there's plenty of low-tech things I enjoy, cause I'm a low-tech boy. I don't pretend to follow new trends, my TV's all black and white. Those Western movies that I watch, oh, they come from the satellite. That I watch, oh, they come from the satellite. I'm just a low-tech boy in jeans and corduroy. Could tell you a lot about horses and soy, but I don't dig no digital toys. Don't call me a fool, cause I've used on coincide and country bonafide. Down in Cary we danced to Hank Clapton Floyd. I guess we were all low-tech boys. Oh, in Cary we danced to George Jones, Haggard and Floyd. I guess we were all low-tech boys. Bella questa canzone, particolarissima la voce del cantante. Lui si chiama Luciano Federighi, magari... magari non vi dice... granché questa, questo nome, se è di country e di solo country che vi nutrite, ma siccome io sono pronto a scommettere che invece voi siete open minded e quindi amate ascoltare musica a 360 gradi e quindi probabilmente amate tanto la musica country quanto il blues, il rhythm and blues e magari pure il jazz, allora certamente questo nome non dovrebbe essere sconosciuto a voi. È uno dei massimi esperti di jazz e di blues a livello nazionale, è un critico, ha scritto molti diversi libri, mi pare per la Mondadori, un tomo dedicato alle grandi voci della musica americana è sicuramente d'obbligo, ma anche gli altri. Scrive per il mensile Musica Jazz e viene chiamato ogni qualvolta c'è bisogno di il parere di un esperto in campo sia della musica jazz appunto che del blues. Luciano Federighi si diletta anche a cantare, avete sentito questa voce particolarissima che non si sente molto spesso perché lui con la sua band di Fabius Fables incide una volta ogni 7, 8, 10 anni, qualcosa del genere. Bene, l'ultimo disco che ha inciso con la sua band, Fabius Fables, è 15 Minutes and 30 Years, un disco di un paio di anni fa a cui io personalmente ci sono particolarmente legato perché ho scritto le note di copertina, mi è stato chiesto e mi ha onorato molto sentirmi chiedere di scrivere le note di copertina di questo disco che voglio consigliarvi non soltanto certamente per il contributo, modestissimo contributo che ho voluto... che ho dato appunto a questa opera di Luciano Federighi e la sua band, ma anche perché certamente erano coinvolti anche altri musicisti, amici miei, tra l'altro voi che state ascoltando dalla Toscana, guardatevi intorno perché ogni tanto potrete magari sentire la chitarra di Fabio Ragghianti suonare dei pezzi di country music in qualche locale della vostra zona. Se siete dell'Emilia Romagna probabilmente conoscete Daniele Sironi che con la pedal steel guitar è sicuramente un asso, è sicuramente uno dei migliori, forse il migliore sul territorio nazionale a suonare questo strumento tipicamente americano. Questo disco vi voglio consigliare di ascoltarlo, se non altro questo disco entrate magari nel sito internet della casa discografica che è la Ethno World, ovvero www.ethnoworld.com etnoworld.it, etno come Empoli Torino Hotel, TH, etnoworld come mondo.it. Ecco, andate a vedere qualche notizia in più sul conto di questo disco, che voglio ripetere ancora il suo titolo, è 15 Minutes and 30 Years. E a questo punto, quando sono passati ormai quasi 35 minuti dall'inizio della trasmissione, credo di essermi reso finalmente conto di non avervi fatto ascoltare nessun classico. Sì, l'abbiamo ascoltato, ma dalle voci di due bravissime cantanti svedesi, ma nessun classico cantato da una voce classica. E la migliore, sicuramente una delle migliori nella storia della country music, è quella di Patsy Cline. Out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way. Voce indimenticabile, la voce di Patsy Cline, che l'abbiamo ascoltato in una registrazione di, oddio, mille anni fa. Pensate che questa bravissima cantante, nata a Gore in Virginia nel 1932, scomparsa alla giovanissima età di 31 anni nel 1963 a Camden, Tennessee, uno dei tanti incidenti, disastri aerei che ha portato via grandi della musica. Lei è una di queste, uno di questi grandi della musica è proprio Patsy Cline, ancora oggi non dimenticata, ancora oggi nei cuori di milioni di appassionati di country music in ogni angolo del pianeta. Pensate addirittura che, adesso non so se è ancora in attività, ma c'è stato in Inghilterra fino a qualche tempo fa un musical che ha tenuto nei teatri, non off, ma sto parlando dei teatri importanti, un musical interamente dedicato alla storia di Patsy Cline. Pensate, qui eravamo con Patsy Cline, il brano classico era Walking After Midnight ed è quasi mezzanotte, mancano 20 minuti alla conclusione della trasmissione e credo di avervi fatto ascoltare davvero troppa poca musica, quindi bando le ciance, vai con un altro classico davvero davvero. Era di Hank Williams. Benvenuto anche a te, John Prine. When I woke up this morning, there was a note upon my door saying, don't make me no coffee, babe, 'cause I won't be back no more. And that's all she wrote. Dear John. I sent your saddle home. Now Tony got along in the belly of a whale, Daniel in the lion's den. I know a guy that didn't try to get along, he won't get a chance again. That's all she wrote. Dear John, I sent your saddle home. No, she never said goodbye. All she said was, if you get blue, just hang your little head and cry. That's all she wrote. Dear John, I sent your saddle home. Now my gal's short and stubby, she's mean as she can be. If that little old gal of mine ever gets a hold of me, well, that's all she wrote. Dear John, I fetched your saddle home. Went to the bank this morning, the cashier said with a grin, I'm sorry for you, little John, but your wife has done been in. That's all she wrote. Dear John, I sent your saddle home. Well, that's all she wrote. Dear John, I sent your saddle home. Dear John, dear John, dear John. Dicevo che era della... usciva dal repertorio di Hank Williams, ma non è uno dei pochi brani non scritti da Hank Williams, dal repertorio di Hank Williams. Una canzone anni 40, una canzone anni 40 che va a chiudere un disco intitolato In Spite of Ourselves, prodotto dallo stesso John Prine in compagnia di un grande produttore, un bravissimo musicista, tra l'altro, Jim Rooney. Era il 1999, anno in cui uscì In Spite of Ourselves, un disco quasi completamente, anzi direi completamente di duetti, di country music assolutamente tradizionale, eseguita da questo John Prine, che è un cantautore che normalmente, usualmente... esegue esclusivamente canzoni scritte da se stesso. Bene, manca davvero poco e ancora una volta mi rendo conto che c'è qualcosa che non va e che tra l'altro devo constatare che non mi avete fatto notare. Non ho ancora trasmesso un brano di musica bluegrass e la trasmissione sta quasi per volgere al termine, ma vi rendete conto? 338-6171-300 è il numero di sms che dovete comporre per sgridarmi se volete più bluegrass. E sta per partire un pezzo che sicuramente vi soddisferà, sì, sicuramente. Un saluto a chi mi ha già contattato via sms, via email a maurizio@radiorockfm.com. Potete fare anche delle richieste, perché no? Provateci. Don Rigsby è un cantante mandolinista che ha fatto parte anche della Lonesome River Band, che ha al suo attivo 3, 4, 5 dischi decisamente buoni, ma dovete amare sia il bluegrass che il gospel. Questo, per esempio, è un brano gospel. Via, Don Rigsby! Celebrate his word, let your voice be heard. You gotta shout, shout, shout. spirit, he knows what you're all about. Jesus loves those joyful noises. Jesus loves to hear you shout. So shout. Amen. Come on, shout. Y'all shout. Praise the Lord. Celebrate his word. Let your voice be heard. You gotta shout, shout, shout. Shout, y'all shout. Praise the Lord. Celebrate his word. Let your voice be heard. You gotta shout, shout, shout. Celebrate his word. Let your voice be heard. You've gotta shout, shout, shout. He loves to hear you shout. Un gospel dalla bella voce, dal bel tenore di Don Rigsby. Ancora bluegrass, ma sì, ancora bluegrass. Diciamo che quello che andiamo ad ascoltare è un bluegrass molto particolare. A proposito, abbiamo ascoltato country music eseguita da un da europei della Svezia. Ecco, vogliamo sentire qualcosa di bluegrass europeo? Voglio farvi ascoltare una canzone, un brano strumentale tratto da un disco intitolato Spring in the Old Country di Slavek Hanslik. Repubblica Ceca, si è trasferito ormai tanti anni fa negli Stati Uniti. Nella Repubblica Ceca, magari non lo sapete, è molto diffusa la musica bluegrass, tant'è che fanno un festival dedicato a, persino al dobro, che pare essere originario, anzi è accertato questo, la chitarra dobro pare essere originaria di quelle zone. Un paio di fratelli, due fratelli, la costruirono, mi pare, negli Stati Uniti, ma erano appena sbarcati in America, insomma. Vabbè, questa è un'altra storia. Adesso voglio farvi ascoltare la chitarra di Slavek Hanslik, ve la voglio far ascoltare con un brano intitolato So Long Jake, da Spring in the Old Country. Bravo, questo chitarrista si chiama Slavek Hanslik. Originario della Repubblica Ceca, dicevo, avete sentito come suona la sua vecchia Martin. Questo disco l'ha registrato negli Stati Uniti e l'ha registrato con alcuni amici molto, molto, molto, molto importanti. Bella Fleck al banjo, Stuart Duncan al violino, Mark Schatz al contrabbasso, lui alla Martin una bella dozzina di brani strumentali, un qualche fiddle tune, un po' di newgrass, un po' di bluegrass tradizionale. Sì, avete capito che insomma anche i cechi, inteso come Repubblica Ceca, sanno suonare veramente molto molto bene il bluegrass. E i giapponesi lo sanno suonare il bluegrass? Sì, la risposta è sì. Lo cantano così così, ma lo suonicchiano decisamente, decisamente, abbastanza bene, ecco, non esageriamo, abbastanza bene. Voglio farvi, potrei farvi ascoltare perché ne ho portati tre, nella fretta non sapevo cosa portare qui in radio, ne ho uno che si chiama Maro Kawabata, ne ho un altro che si chiama... Katsuyuki, non è una parolaccia il suo nome, Katsuyuki Miyazaki, e ne ho un altro, Kazuhiro Inaba. Ecco, scegliamo questo perché è il più facile da pronunciare. Il brano è 8 More Mile to Louisville, e quindi Kazuhiro Inaba, tra l'altro anche lui l'ha registrato negli Stati Uniti e l'ha registrato con una bella squadra di musicisti americani che sanno il fatto loro in quanto a bluegrass. 8 More Mile to Louisville. I've traveled over this country wide, seeking fortune fair. I've been down the two cross line and traveled everywhere. From Portland East, Portland West, back along the line. I'm going now to places best and no hometown of mine. 8 more miles from Louisville will come into my view. 8 more miles from this solo fire, never more be blue. I knew someday that I'd come back, knew it from the start. 8 more miles to Louisville, the hometown of my heart. Like a best of all, the marriage that in Louisville sees wrong, sees tall. Let's see the kind you can find lumbering through the land. I'm on my way this very day to win her heart and hand. 8 more miles from Louisville will come into my view. 8 more miles from this solo fire, I'll never more be blue. I knew someday till I come back, knew it from the start. 8 more miles from Louisville, the hometown of my heart. In my mind, press will go home. A humble little happy will never want too long. The press is ripe, love is high in those progress hills, where the gently fall the Ohio by press go living. 8 more miles and Louisville will come into my view. 8 more miles from this soul of I'll never more be blue. I knew someday that I'd come back, knew it from the start. 8 more miles to Louisville, the hometown of my heart. Come into my view. 8 more miles from this old off, I'll never more be blue. I knew someday that I'd come back, knew it from the start. 8 more miles to Louisville, the hometown of my heart. 8 more miles to Louisville, the hometown of my heart. Mica male, mica male. 8 more miles to Louisville. Questo era Kazuhiro Inaba. Ecco, allora abbiamo ascoltato il bluegrass dagli americani, l'abbiamo ascoltato anche da Slavekans League, l'abbiamo ascoltato da un giapponese che in quanto a voce non è messo benissimo, insomma, bisogna sottolineare questo aspetto. Bravino invece dal punto di vista strumentale, bravissimi sicuramente quelli che lo accompagnano. Va bene, non dilunghiamoci in commenti perché manca davvero poco tempo e voglio tornare in Europa per voi e solo per voi. Abbandoniamo un attimo il bluegrass, ne avrete un'altra porzione la settimana prossima. Non dimenticate che al martedì va in onda Country Skyline, se amate i suoni della tradizione. E qui andiamo nel traditional country, come lo chiamano gli americani. Noi se chiamiamo traditional country pensiamo ai violini, mandolini, eccetera eccetera, no, è quel country anni 40 e 50, ecco, intriso di honky tonk. E uno dei più grandi del periodo fu Faron Young, un tributo a Faron Young dagli svizzeri Rhythm Train. Sentiamo il ritmo del treno di questi quattro svizzerotti con Live Fast, Live Hard, Die Young. I wanna live fast, love hard, die young, live a beautiful memory. I wanna live fast, love hard, die young, live a beautiful memory. Don't want to walk in or set in, let them have to believe. I wanna live a lot of happy women. Me. I wanna live fast, love hard, die young, live beautiful memory. I got a hot rod bar and a cowboy suit and a really cute cat around. I got a little black book and a gal so cute. I know the name of every sport in town, so fine and fooling, living, and let me do the same to me. I wanna live fast, love hard, die young, live beautiful memory. I nostri svizzerotti con che abbiamo ascoltato con Live Fast, Love Hard, Die Young. Oh, finisce qui la trasmissione, finisce qui, che dolore. È mezzanotte, ma non temete, non vi lascio così violentemente, no, vi lascio nelle mani di tre belle ragazze meravigliose che voi sapete io ho un debole per queste tre. Avete già capito anche di chi sto parlando, delle Dixie Chicks, che promuoverle non è una cosa, cioè, non è come promuovere un artisti di Nashville che, no, queste vanno promosse, queste vanno aiutate perché hanno chi rema contro, e noi dobbiamo aiutarle. Queste tre povere ragazze vanno aiutate anche per il messaggio che portano in giro per il mondo da qualche tempo a questa parte. Devo dire che vanno aiutate, vanno pubblicizzate. Domanda insidiosa, ma i Pearl Jam hanno fatto una o più canzoni country? Daniele, hai fatto una domanda insidiosa. Non ti so dire, so per certo che ci sono tanti artisti rock che si sono avvicinati al country da un po' di tempo a questa parte. Bon Jovi mi viene in mente lui in questo momento, ma ce ne sono tanti altri. Quindi non mi stupisce affatto scoprire che Pearl Jam possano aver fatto qualche cosa di cantreggiante. Ci sono addirittura artisti che si mettono a fare bluegrass e che col bluegrass non hanno nulla a che fare. Sì, insomma, un po' riscoprire la tradizione non può che anche essere cosa positiva, nel senso di insomma una boccata di ossigeno, che dite voi? Bene, è mezzanotte, rimane tempo quindi per la prima canzone, quella che apre l'ultimo disco delle Dixie Chicks, Taking the Long Way. Noi ci risentiamo domani sera con il Matthews Garage Land, trasmissione di rock and roll, punk, garage soprattutto. E ci sentiamo anche giovedì con Good Rockin' Tonight. Vado? Posso andare? E allora vado, vai con le Dixie Chicks. My friends from high school married their high school boyfriends, moved into houses in the same zip codes where their parents lived, but I could never follow. No, I could never follow. Hit the highway in a pink RV with stars on the ceiling, live like a gypsy. Six strong hands on the steering wheel. I've been a long time gone now. Maybe someday I'm gonna settle down. But I've always found my way somehow by taking. I met the queen of what